stanotte ho aperto uno spiraglio nel tuo intimo. Non ho bussato però sono entrato piano. Aspetterò che tu ti senta un po' più sicuro. Nel frattempo ti canto una canzone al buio. È il tratto fuori dal comune a vivere nel tempo. Quella bellezza in cui il difetto resta al posto giusto. Se vuoi trovarmi cercami nell'imprevisto. Ho capito che la felicità non è per sempre, che ti viene data in prestito. E adesso che è qui con me ho capito perché. Perché possa regalarla, regalarla a te. E non c'è pioggia e non c'è vento che può spostare l'epicentro dei miei occhi su te. Può spostare l'equilibrio dei miei occhi su te. Perché siamo nel bel mezzo di un applauso. L'universo intero applaude noi. L'universo intero applaude noi. Non accontentarti di qualcuno solo perché è ovvio. Come un accordo dissonante a cui non fai più caso. Se vuoi incontrarmi cercami nell'imprevisto. Ho capito che la felicità non è per sempre, che ti viene data in prestito. E adesso che è qui con me ho capito perché. Perché possa regalarla, regalarla a te. E non c'è pioggia e non c'è vento che può spostare l'epicentro dei miei occhi su te. Può spostare l'equilibrio dei miei occhi su te. Perché siamo nel bel mezzo di un applauso. L'universo intero applaude noi. L'universo intero applaude. L'universo intero applaude noi. Sento che rinasco dal tuo stesso petto. Per morire non so dove, non so quando. Nell'abbraccio tuo intravedo meglio tutto. E tutto è stupendo. Ho capito che la felicità non è per sempre, che ti viene data in prestito. E adesso che è qui con me ho capito perché. Perché possa regalarla, regalarla a te. E non c'è pioggia e non c'è vento che può spostare l'epicentro dei miei occhi su te. Può spostare l'equilibrio dei miei occhi su te. Perché siamo nel bel mezzo di un applauso. L'universo intero applaude noi. L'universo intero applaude. L'universo intero applaude noi. L'universo intero applaude.